Buonasera, io sono Hector Ledo e bene, siamo qui in Onda Rossa e in questo caso per una trasmissione speciale. E questo che stiamo ascoltando non viene qui da Onda Rossa, viene attraverso il satellite di una piccola radio in un piccolo valle in piena cordigliera degli Andes. Questa è la musica, si chiama Tonolec, questo gruppo. E questa è la radio FM Ala che sta suonando, no? Lì in Patagonia, adesso 5 ore meno sono lì, è la differenza oraria. E bueno, quello che succede oggi in Onda Rossa, nel programma Radio Teatro, è che abbiamo un collegamento, prima volta che si fa, tra Onda Rossa e FM Ala. La Patagonia e Roma collegati per questo programma speciale, no? Una produzione internazionale, possiamo dire, di questa piccola radio, di queste due piccole radio, però sempre con grande cuore. Questo gruppo si chiama Tonolec. Alla fine di questo brano musicale inizia il programma speciale. Buon ascolto. Sì, dico di nuovo, no? Il brano è lungo, si chiama Tonolec e dopo, quando finisce questo brano, iniziamo questo programma internazionale di FM Alas con Onda Rossa. Dalla Patagonia Argentina a Roma senza, diciamo, interruzioni. Buon ascolto. ¿Estás listo, Ferné? Sí, capo, tutto pronto. Cuando vuole iniciamo. Termine el tema. El tema musical. Sí. Te mando en onda. Okay. Okay. ¿Tutto bene, allora? Tutto bene, capo, gracias. ¿Conseguiste todo, entonces? Y Colaboratori, la Escuadra Esterni, Communication Internacional. Guarda que habíamos fatto molta publicidad de esta transmisión, ¿eh? Sí, capo, tengo pronta tutto el equipo para la transmisión. Producción europea, capo, ¿qué le parece? Mira que lo venduta como una producción internacional patagónica italiana. Ok. Ricordati di dire, FM Alas, sí, da la Patagonia Argentina para todo el mundo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, dilo, capo. Me acuerdo. Decilo. Ve. Transmite FM Alas, da el bolsón Patagonia Argentina para todo el mundo. No, no es así. ¿Cómo que no es así? Transmite FM Alas desde el bolsón Patagonia Argentina para todo el mundo. Se alarga todo, no, mundo. Va bien, capito, capito, capito, va bien. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Bene. Buena fortuna, ragazzo. Gracias, gracias, capo. Alas 89.1 en el aire, con los pies en el valle. Buenas noches, amigos. Scusi, buonasera a tutti. Siamo in Onda Rossa, siamo in FM Alas, siamo in collegamento in diretta per tutto il mondo. FM Alas, dal Bolsón, Patagonia Argentina, para todo el mundo. No, no es así. oggi da Onda Rosa, Radio Onda Rosa, e abbiamo un programma davvero speciale con storie incredibili e inedite del nostro continente, America. America che non è solo Stati Uniti, America è molto più grande e diversa. E come sempre il miglior servizio informativo oltre ai nostri giornalisti e invitati speciali. Alas, la radio comunitaria da El Bolsón. Ora ci colleghiamo con i nostri satelliti, tecnologia di punta per trovarci in ogni luogo, dal nord all'ovest, all'est, fino al sud, in questo caso il sud del mondo. Siamo collegati, sì, mi dicono che sì, che siamo collegati. Santiago, sei lì in Patagonia, mi senti? Santiago, avanti. Sì, grazie Ferné. Che emozione, primo collegamento, no? Dalla Patagonia in diretta con una delle nostre madri patria, l'Italia, Ferné. Dimmi, Santiago, con chi sei lì in Patagonia? Non ti sento bene, Ferné. Vogliamo da qui, da Onda Rosa, ascoltare le voci della gente, dei vicini, di quelli che camminano per le strade del sud del mondo, Santiago. Ah, sì, sì, sì. Siamo in diretta da questo piccolo paese, El Bolsón, in piena cordillera degli Andes, in compagnia di una vicina abitante del luogo, Doña Luisa. Hola, Doña Luisa, ¿cómo está? Amareggiata, come sempre. Perché, Doña Luisa? Non so, questo figlio mio sta un po' fuori di testa, mi sembra. Non voglio andare, ma che tengo che andare io viaggiando? Non tengo gana di viaggiare, sto bene acá. Che stai bene qua? Che stai bene qua, figlio? Non fai niente di produttivo qua, non hai niente qua. Stai tutto il giorno a perdere tempo, sempre facendo lavoretti per qualcuno senza guadagnare un peso, e sparisci per giorni per andartene al lago. Dai, non fai niente di produttivo. Guarda tua sorella, Sa, signor giornalista, che ho una figlia che sta benissimo in Italia. Quell'animale del padre, l'unica cosa buona che ha fatto è lasciare ai figli la cittadinanza italiana. Sei un cittadino europeo, tu. E qual è il problema, Doña Luisa? È che Daniel non vuole andare. Dai, dai, ascolta tua sorella, dai, ascolta tua sorella almeno, no? Senti. Querido hermano, voglio che tu vieni. Ho bisogno di te. Mi stanno andando bene le cose qua. E ho bisogno di qualcuno di fiducia. Hai capito? E mi manchi, fratellino, mi manchi. Ah, sapevi che qui sul Vesuvio crescono alcune delle stesse piante che crescono anche a El Bolsón? Ci sono denti di leone, pericum, timum. Ti aspetto, hermanito. Besitos. Si rende conto, signor giornalista, che Dio non lo perdona questo, Quello che hanno sofferto i nostri nonni italiani per arrivare qui in Argentina. Tanto sacrificio, tanta fatica, ricominciando di nuovo lontano dal proprio paese. E ora tu che puoi vivere lì senza tanta difficoltà, sei un cittadino europeo, tu. Mi spezza il cuore la tua partenza. Io non vorrei, ma è la cosa migliore per il tuo futuro, no? E se tutto va bene, porta anche me lì un giorno. Io vi cucino. Io non conto, figlio, io non conto. Grazie, Doña Luisa. Bene, torneremo più tardi da qui, dalla Patagonia, avanti lì a Roma, Ferné, grazie. Buon inizio di programma, Santiago, grazie. Torneremo più tardi lì in Patagonia. Adesso, in Solo per l'Orecchio, che così si chiama questo programma, un poco di musica. Jaime Ross, dall'Uruguay para todo el mundo. Hoy es día de esquela. Dijiste que venías. Hoy es día de esquela. ¿Quién sabe qué hay culere? Será de trazo simple, de simples sentimientos. Será una simple esquela que buscaré cuando ya no estés. Cada vez lo sabes, cada vez lo sabrás. Cada vez que cerras la puerta en silencio, sabrás que me despierto ilusionado por saber que cada vez lo sabes, cada vez estará pegada en el espejo. Cada vez que te vas lo sabes, una esquela esperándome. El paraíso en medio de los hombres y mujeres de la ciudad que vuelven a sus casas por martes de invierno. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos como un templario. Como siempre, cada vez que cerras la puerta más que nunca, sabrás que me como siempre ilusionado por cada vez. Estará pegada en más que nunca. Cada vez como que siempre, te vas, te sabes, una esquina esperada a veces. Como siempre, cada vez que se muestra por más que nunca. Sabes que como siempre, ilusionado por cada vez. Cada como siempre, cada vez estará pegada en más que nunca. Cada como siempre, te sabes, una esquina esperada. L'aria più limpida, paesaggi da sole, l'acqua più pura, boschi e laghi, montagne imponenti, boschi e laghi, Patagonia argentina, visitatela, prima che la privatizzino, prima che la cupidigia distrugga la meraviglia. Prima che rubino le sue riserve naturali. Prima che rubino le sue riserve naturali. Patagonia Argentina. Visitatela. Fernet. Sì. Mi escuchás, Fernet? Sì, sì, capo. Sì, Fernet. Buon inizio, no, capo? Eh? Beh, sì, va. Decime, ¿no tenés un columnista? ¿Eh? Dale ritmo, pibe, agilità, ¿eh? ¿Me capisci? Dale. ¿Un columnista? Sí, giornalismo, mettici il giornalismo. Va bene, ok. Dale. Ok, ok. Alas 89.1. Solo per l'orecchio entra la radio, però in questa unione di sforzi che rappresenta questa produzione, la radio si vede. Qui a Onda Rosa molta gente si è avvicinata per vedere questa schiera di microfoni, di giornalisti e invitati speciali che conformano l'equipe della nostra emittente. Solo per l'orecchio questi suoni, raccontandoci i fatti di quartiere, dei vicini. Santiago, sei ancora lì in Patagonia? Patagonia, mi senti? Avanti, Patagonia. Sì, grazie, Fornis. Continuiamo da qui, da questo piccolo paese, il Bolson. Ora si è alzato un po' di vento. E ti racconto che la storia di Daniel e del suo viaggio verso l'Italia ha innescato una vera e propria polemica di quartiere. Ascoltiamo questa registrazione, Fernè. Bene, così che si sta vivendo questa storia di Daniel, che ricordiamo non vuole partire per l'Italia. Daniel ha la cittadinanza italiana e di più sua sorella, nel quale nel caso le cose vanno molto bene in Italia, aspetta suo fratello con un lavoro. Torneremo più tardi a qui alla Patagonia. Avanti, Roma. Che momento, no? Il momento in cui se prende una decisione di fermarsi o andarsene da un posto. Una vita che sta per cambiare, che sta per congedarsi da tante cose, corpi che se ne vanno e spazio vuoto e nel corazon. Tornerai? Bella domanda. Torni? Non lo so. Dimmi, tornerai? Non so che dire. Maledico i venti e le navi, che allontanano l'origine dal suo destino. Sì, sì, tornerò, tornerò. Ascolti, Fermè, continua con la storia di questo ragazzo, eh? Ho avuto un sacco di telefonate. Dale, dale. Possiamo anticipare al nostro pubblico che Daniel, figlio di Luisa, il ragazzo di El Bolson, amico delle montagne, ha già preso la sua decisione. Tocca a voi scoprire che cosa gli è passato per la testa, no? Dai, coglione! Approfitta! Vieni, ho bisogno di te. Al ritorno ci vediamo. Dai, coglione! Dai, dai! E mi manchi, fratellino, mi manchi. Approfitta! Dai, coglione, dai! Tornerai? Tornerai. Approfitta, approfitta. Mia sorella mi ha detto che lì sul Vesuvio crescono alcune delle stesse piante che crescono qui. Come avranno fatto a viaggiare i semi? Che importa? Smettila di pensare a quello. Pensa solo a te. Avranno viaggiato nel fumo in occasione di qualche risveglio del vulcano. Nubi oscuri di una vita sopita. Polline rovente, viaggiando senza valigie. A caso, senza documenti. Riguardati, figlio, prenditi la pillola. Cautelati, amore. Mamma, com'è possibile che ci sono le stesse piante qui e là? Avrà esploso tutto una volta quel fuoco. O il vento contrabbanda l'impossibile. Figlio, colui che pensa perde, pensa a tua sorella. Lei sa il fatto suo, dai, dai. Che boludo. Ora che me ne vado, mi viene in mente il bottegiero. Si ricorda mai quando passava per il quartiere? Aveva un carretto con un cavallo vecchio, però elegante. Il carretto, le cose che trasportava, di tutto, cucine, sedie, ferro. Io ero piccolino e lo vedevo passare come una carrozza di cose impossibili, impossibili. Non fare il nostalgico, boludo, che la testa ti diventa marcia. Dimenticati di tutto e di tutti. Sono cose morte, Dani. Morte, cos'è morte? Lo so, cos'è morte? Lo so. Mamma, lei si ricorda il bottegiero? È demasiado raro todo eso, eh? Mettici giornalismo, pibe, non fare il poeta. Periodismo, giornalismo, che te pensas? Che stai facendo burratini? quiere, pide. Possiamo anticipare al nostro pubblico che in questo momento molta gente si trova in aeroporto. Che sono tanti quelli che stanno per abbandonare il loro paese per qualche motivo, un'idea, un sogno o un bisogno. E i nostri microfoni sono per esempio in un aeroporto. Siamo collegati? Sì, grazie. Aeroporto di Ezeiza a Buenos Aires. Tanta gente sta per partire, no? In quel limbo che è l'aeroporto, valigia in mano. La domanda è, perché te ne vai? Beh, io me ne vado perché... E conosco el amigo de la cognata del nipote de mi suocera a un bar in spiaggia. E io vado un po' de tango, perciò ho scritto la fidanzata del cugino del camariere che le dica a mio suocero, a Carlo, che è quello che conosce al nipote del capo del bar, che io sto partendo, io sono pronto, diciamo. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Per questo me ne vado. Non aspetterò tutta la vita che le cose cambino. Me ne vado, basta. E perché me ne vado è difficile la domanda, no? È un incrocio di sogni, desideri, no? Illusioni. Com'è? No, non so che farò. No, non so che fare. E qualcosa mi verrà in mente, sicuro, no? Qualcosa mi verrà in mente. Tanta gente sta per partire lì a Ezeiza, ma manteniamo il collegamento. Da Ezeiza ce ne andiamo a un altro aeroporto, qui a Roma, Fiumicino, Leonardo da Vinci. Mattinati, sei lì, mi senti, Mattinati, avanti? Sì, grazie Fernè. Stiamo registrando quello che succede in un ufficio immigrazione. Nascosti all'interno di un cartellone pubblicitario del Chinotto. Una bevanda che c'è qui in Italia. Ma ascoltiamo quello che si sente in questo ufficio immigrazione. Ascoltiamo. Prego. Ok, avanti. Prego. Ok, avanti. Prego. Qual è il motivo del suo viaggio? Ma non muco dico, sorella. Ha un permesso di soggiorno. Una carta di credito, almeno. Come a mina pumo, nei. Capisco, un attimo, Comandante, vada, le spiega tutto al comandante. Sali caramacchio, sali macaracchio. Le spiega tutto al comandante, vada. Pronto. Ehi, Ubasaba, come stai, amore mio? Morena mia. Tutto bene? Hai ricevuto notizie dell'Africa? Andrà tutto bene, amore, non preoccuparti. Questo fine settimana andiamo al mare in vela. Ti piacerebbe? Forse, chissà, possiamo avvistare una balena, eh? E se non avvistiamo nulla, che importa? Facciamo dei sciocchetti insieme, come due selvaggi. Facciamo dei sciocchetti insieme. In diretta per i due continenti, registrando quello che succede in un ufficio immigrazione, nascosti all'interno di una pubblicità del chinotto. Le voci della gente, le voci di questo mondo. Solo per l'orecchio. Solo per l'orecchio. Entra la radio. Solo per l'orecchio. Entra la radio. Pubblicità. Da dove esce l'acqua, ma? Dal rubinetto, Carlitos. No, Carl. No, Carl. L'acqua nasce dalle montagne più alte che formano i fiumi e i laghi, dalle acque più pure. I potenti del mondo se ne stanno appropriando perché le prossime guerre saranno per l'acqua. Patagonia Argentina. Visitatela prima che non vi lascino più entrare. Fernè! Sì, capo. Interessante, eh? Grazie. Come ha fatto l'inviato a ficcarsi lì, dentro nell'ufficio di immigrazioni? Interessante, eh? Però ascoltami, continua con la storia esa del pendejo che non vuole andarsene. Riflette la lotta tra il desiderio di restare e l'ansia di fuggire dai nostri giovani della nostra terra. Capisci? Capito. Sì, sì, sì. Ya te dije, ho ricevuto molte telefonate, eh? La storia, pibe, la storia. Dai, dai. Vamos, che. Sì, cari radioascoltatori dei due continenti. Daniel se ne va. Si trova in aeroporto. Qualcosa, non sappiamo cosa, gli ha fatto cambiare idea. Forse ha seguito i consigli della madre o forse ha seguito i consigli degli amici, non si sa. Allora, dalla Patagonia se ne va in Italia, dove l'aspetta una nuova vita. Daniel se ne va. Che cerca? Avventura? La felicità? La felicità è artificial. La felicità è artificial. Grazie, Fernè. Ci sono molti che se ne vanno, ma ci sono molti che restano, Fernè. Siamo ancora qui in questa piccola cittadina del Bolson con un'altra vicina, qui sulla porta della casa che l'ha visto nascere. Rosa, una vicina del quartiere. Rosa, raccontale al pubblico un poco della tua vita, dai. Ay, ¿qué puedo decir de mi vida? Ay, esto de la radio siempre hacen esta locura. Bueno, algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir. A ver, mi vida. Bueno, la mia vita è un vestito. Mi vida es un vestito. È un vestito escuchito, con una manica al omero. E l'altra la gonna, il collo senza ricamo, e la scolatura aderente, soffocante, affogato, deslucido. Ciao Antonio, sì, te spero. Ciao, saludos. Ah, la mia vita è una gonna a fiori, girata da un lato, viola e gialli come un fuoco spento. La mia vita è un vestito estivo, è un vestito corto, cortissimo, y abrigado. Y abrigado. Ay, poverino, siente la mancanza, ¿no? Tornerá, tornerá, sí. La mia vita è un vestito perduto e dimenticato con tocchi portentosi di colori spenti. La mia vita è un vestito che tu imbastisci sopra l'ombra lunga di quando ci amiamo. Ricordi? La mia vita è un vestito trascurato, mai di moda, mai molto usato. Beh, arrivederci. Qui in Patagonia è autunno. Fa freddo. Ciao, arrivederci. Alas 89.1 en el aire. El aire, con los pies en el valle. È il mio volo, ma bene, hai capito come si fa a scrivere una mail? Dimenticati di quello, caro. Beh, ascolta tua sorella, eh? Lei sa il fatto suo, dai, buona fortuna, vattene, vattene. Ai, mi mancherai, figlio, mi mancherai tanto. Sì, ti scriverò, ciao, ciao, baci, ciao. Buona fortuna, ciao. Le maschere di ossigeno e in caso di qualsiasi incidente verranno giù per essere collocate e cominceranno a funzionare automaticamente. Le porte d'uscita sono 6, come indicato dalle hostess. Sotto le vostre poltrone troverete i giubbotti di salvataggio. Prima di indossarli dovrete tirare la cordicella di sicurezza. È una gemma luminosa questa tristezza di chi tocca e accarezza e saluta per l'ultima volta ogni persona e ogni paesaggio quando inizia il suo viaggio verso il nulla. Come sarà possibile che dal vulcano alla cordigliera scorrano fiumi di pietre roventi attraverso il mare? Sarà che la terra si piega su se stessa un tanto affinché le montagne si bacino e si alzino gli schienali? Ma a volte è il mondo che muore, a volte ciò che agonizza è un modo di essere del mondo. Sento dentro di me questa tristezza di chi tocca con i suoi presentimenti la morte del mondo che lo ha concepito. Già non ci saranno le strade che amavamo, nelle case che visitavamo, e i nostri amici trottando di qua in là tra loro piani e frustrazioni. Anche a loro il nuovo mondo gli è arrivato e il vecchio mondo li ha abbandonati. Me despido de mí mismo y de mis amigos en el mundo viejo que se termina y en el que hemos quedado sin consuelo posible. E mi do il benvenuto a me e ai miei amici nel nuovo mondo a cui siamo arrivati, perché con lui siamo partiti. Brindo ai nostri fuochi, ai taccuini che si stanno bruciando, e soffio dentro il vento di tutti i nostri soffi, perché le cenere del copione scompaiono nell'oblio. Solo per l'orecchio. Solo per l'orecchio. Entra la radio. Solo per l'orecchio. Entra la radio. Pubblicità. Questo è il suono dell'acqua più pura del mondo che scorre nel suo letto. È di tutti. Se non la curiamo e non la difendiamo, questo suono sarà un ricordo. Alas, 89.1 en el aire, con los pies en el valle. Che, qué bien, ¿eh? Ahora resulta que el pibe Daniel es un poeta, ¿eh? Bien, Ferné. Dimmi, haya publicado un su libro, supongo, ¿eh? ¿Ti sei bevuto no. el cerbero? No. ¿Qué es esta roba? ¿Me estáis prendiendo por el culo? No, capo, ¿es no. eso? No, por... Dimmi la verità. Questo Daniel, Daniel, sí. non può dire queste cose. Perché? Metti un attore, eh? No. Dimmi la verità. Non puoi fare un programma di radio più... Dai, Ferné, più... Va bene. Abbiamo degli obblighi capito. Commerciali da rispettare, capito? Capito, scusi, capo. Parlo sul serio, pibe, eh? Non fare cose sofisticate. Ritmo, informazione, cacà, chichì, Entendés? Guarda che le stiamo dando un taglio creativo alla informazione, solo quello, non è un altro. I fatti sono quelli, la forma di dirlo forse è diversa, però... Che no? merda sta dicendo? Ricordati quello che ti ho detto. Tenemos compromisos comerciales, Ferné. Mi scusi, capo, mi chiamano dall'esterno. Interrompiamo la musica perché abbiamo un collegamento con il Bolson. Sì, che succede, Santiago? Sei lì? Sì, grazie, Ferné. Bene, c'è un colpo di scena nel viaggio di Daniel verso l'Italia. Ha successo qualcosa. Si è perso il contatto con l'aereo, Ferné. Noi abbiamo tentato di collegarci con la compagnia aerea, ma nessuno ha risposto alle nostre chiamate. Se temi il peggio, Ferné. Avanti Roma. Grazie, Santiago. Passiamo la linea in informazione per vedere che novità ci arrivano attraverso la rete. Sì, l'informazione arriva da Napoli. Un aereo con destinazione in questa città, che era partito dall'aeroporto di Buenos Aires, è scomparso dalla sua rotta abituale all'altezza del Nord Africa. Fino a questo momento non c'è alcun contatto con l'aereo, Ferné. E a tutto questo, che dice la compagnia aerea? La compagnia mantiene un preoccupante silenzio, Ferné. E che dice l'aeronautica? Sì, l'aeronautica mantiene una preoccupante aspettativa, Ferné. E che dice, per esempio, la madre di Daniel? Non doveva andarsene, colpa mia. Passiamo a una nota di colore. Un gruppo di scienziati ha iniziato a svelare il mistero del canto delle balene. Pare che il canto serva al mammifero per comunicare con i suoi simili, per manifestare stati d'animo e fare proseliti. Ascoltiamo questa registrazione, Ferné. Un errore, abbiamo un collegamento. Sì, Mattinati, mi senti? Dove sei, Mattinati? Grazie, Ferné, siamo nell'aereo dove viaggiava Daniel, Ferné. Mattinati, come hai fatto a infiltrarti nell'aereo dove viaggiava Daniel? Dove siete, Mattinati? Siamo atterrati... in Africa, Ferné. Io ho viaggiato nascosto dentro uno dei carrelli che portano il pasto in aereo. Sono schiattato dal caldo, ma sono qui, tutt'uno con l'informazione. Ma perché è scomparso l'aereo, Mattinati? Quella che è scomparsa è la compagnia aerea, Ferné. E l'impresa, attraverso alcuni volantini, informava che dopo l'atterraggio qui in territorio africano ha cessato di esistere. L'equipaggio è scomparso e il peggio è che non sappiamo dove ci troviamo. C'è confusione, scene di panico. Siamo in un piccolo aeroporto che si trova... Dove si trova, Mattinati? La giungla, sembrerebbe la giungla. Da qui si vede il mare lontano. E a tutto questo, che dice Daniel, il nostro ragazzo? Sì, Daniel ha parlato con noi ai nostri microfoni, sì. E che ha detto? Questo lo sapremo dopo gli spot pubblicitari. Avanti Roma. Pubblicità. La tierra gira en pocas manos, veloces, oscuras. Veloces, oscuras. ¿Será que te acostumbraste a vivir acorralado? Acorralado. Los pocos acumulan miles de hectáreas. ¿Será que te acostumbraste? Bene, e continuiamo da qui, da qualche posto nella giungla africana con Daniel, che ha iniziato il suo viaggio verso l'Italia. Daniel, come ti senti? Per di più mi hanno rubato tutto. Non si può tornare indietro. Quello è... non si può tornare indietro. Sì. E che dicono gli animali? Gli animali non parlano, Mattinati. Gli animali non parlano. Che momento, no? Bene, torneremo più tardi con questo viaggio, a questo punto accattivante, di Daniel, che sta viaggiando verso Napoli. Ma siamo in un programma di radio in diretta, collegata Radio Onda Rossa e FM Alas del Bolson. Musica, Vicentico, da Buenos Aires para todo el mundo. Bien, pibe, bien. Continua così. Informazioni musichita, informazioni musichita. Bien, bien. Hai trovato anche degli ospiti, no? Bien, bien, bene, ragazzo. Ahí viene el amor y la amor se va. Ahí viene el dolor y el dolor se va. Ahí viene la lluvia se va. Ahí viene la sola se va. Ahí viene el amor se va. Tengo un perro blanco como la espuma blanca del mar. Corre por la arena dejando huellas, huellas que las olas se llevarán. Ay, ay, ahí viene el amor se va. Ahí viene el dolor se va. Ahí viene la lluvia se va. Ahí viene la sola se va. Cielos negros, grises, rojos y azules. La luna blanca sobre el mar. Y desde entonces no has llegado, mujer, a mí. Cabaña aquí en el mar. Corro por la arena dejando huellas, huellas que las olas se llevarán. Grazie Vicentico da Buenos Aires para todo el mundo. Y dicevamo prima che la storia sta in un punto accattivante, per questo abbiamo invitato al nostro invitato, al nostro filosofo prediletto Don Enrique. Don Enrique, il microfono è suo. Sì, grazie. Come diceva prima fuori il microfono, quello è il vero cadavere, no? Quando Daniel dice che non si può tornare indietro, sta parlando del momento della decisione, no? Quello è il vero cadavere. Quando si ha detto sì invece di dire no, no, quando si ha girato a destra invece di andare a sinistra, quello è il momento della decisione, il cadavere del momento che mai torneremo a vivere, capito? È una legge della biologia che non si può tornare indietro. Per questo la meva si vede costretta a trasformarsi in paramecchio invece di dissolversi in una comunione di esseri semplici, diciamo. Nella decada del 60, di milioni di anni fa, quella simia affacciata sull'avviso del mistero ha visto un pericolo che io oggi non ricordo, perché la memoria fa una scelta, ma quella scelta la fa la paura, capito? Grazie Don Enrique, sempre così chiaro, torneremo più tardi con lui. Avanti la informazione. Sì, adesso sì, possiamo andare con questa nota di colore. Un gruppo di scienziati ha iniziato a svelare il mistero del canto delle balene. Pare che il canto serva al mammifero, quello che dicevamo prima, per comunicare con i suoi simili, per manifestare stati d'animo e fare proseliti. Ascoltiamo questa registrazione. Troppo grande e si vede, si vede la nostra ricerca del callo, la nostra inoffensiva routine. Viviamo come clandestine qui sotto, scappando da quelli che macerano il mondo ogni giorno, scappando dalla crudeltà che ci pedina, scappando. Fuggiamo per il male, fuggiamo per il mare che unisce ciò che è separato e bagna i problemi. Non si può più notare e cantare, si vede. Traduzione del canto delle balene. Il nipote di Cousteau? Fornè, non dare di testa, eh. Esa la inventaste, turrito. Le balene che parlano. Sei hijo de puta. Perché non fai parlare anche le rondini? Fornè, non dare di testa, eh. Non dare di testa. Fornè, notizie urgente dall'Africa, Fornè. Vai avanti, mattinati. Sì, ti racconto, li racconto al pubblico che stiamo seguendo Daniel, che dopo aver parlato con un indigeno è uscito dall'aeroporto, verso dove non si sa. Daniel, dove vai? Non chiamarmi Daniel, noi non ci conosciamo, no? Sì, è vero, scusa. Daniel, dove vai? Ti hanno rubato tutto, è così, senza documenti, senza nulla. Dove sei diretto? a Napoli. Andavo lì e chissà se arrivo, no? Qui questa gente mi ha invitato a andare con loro. Quale gente? Mi fai perdere tempo, ragazzo. Adios. Daniel! Daniel! Ti racconto, Fernelli, racconto al pubblico che Daniel si sta dirigendo verso la spiaggia. Vediamo da qui un gomone con molta gente sopra. Sono tutti neri, meno Daniel. Non so che pensare, Fernelli, non so che pensare. Provo a salire sull'imbarcazione. Daniel! Daniel! Salga su, Branco. Mi hanno detto che vuole arrivare a Napoli. Sì, a Napoli. Una domanda, Moreno. Qui in Africa cresce il dente di leone? È una piantina di fiore giallo. Se fa una tisana fa bene la prostata. Beva un po' d'acqua, Branco. Quanta gente. Non siamo troppi. Sono tutti bravi ragazzi. Quasi tutti stanno scappando. Scappando? Di che cosa? Delle diverse forme del male. Baruch. Stiamo andando a Napoli, deve parlare in italiano, non può parlare. Parlo italiano. Prosciutto, mare mosso, buon pomeriggio. E voleva dire, il capitano ha la febbre. Il capitano ha la febbre? Sono troppo caldo, troppo sale. Figlio di immigrati russi, sposato in Argentina con una pittrice ebrea, si sposa per la seconda volta con una principessa africana in Messico. Musica indù è spacciata da gitani polacchi, ha successo nell'interno della Bolivia. Zebre africane e canguri australiani nello zoo di Londra. Mummie egizie e manufatti incas nel museo di New York. Lanterne giapponesi e gomme americane nei bazar coreani di San Paolo. Immagini di un vulcano nelle Filippine escono sulle reti televisive del Mozambico. Armeni naturalizzati in Cile cercano i loro familiari in Etiopia. Case prefabbricate canadesi costruite con legno colombiano. Multinazionali giapponesi installano imprese a Hong Kong e producono con materie prime brasiliane per competere con il mercato americano. Letteratura greca adattata per bambini cinesi della comunità europea. Orologi e svizzeri falsificati in Paraguay venduti da contrabbandieri nel quartiere messicano di Los Angeles. Turista francesa fotografiada semi desnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Batterie americane alimentano elettrodomestici inglesi in Nuova Guinea. Benzina araba alimenta automobili americane in Africa. Pizza italiana alimenta italiani in Italia. Bambini iracheni fuggiti dalla guerra non ottengono il visto nel consolato americano di Egitto per entrare a Disneyland. Para entrar en la India, para entrar en... Qualcuno sa dove andiamo? Siamo persi. Qualcuno sa dove andiamo? Il capitano ha una febbre che lo fa volare. Il capitano si vola. Troppo giorni, troppi giorni, troppo sani, troppo caldo. Strano, solitamente non vedo uomini che volano qui. Ombre, sai se per andare a Roma vado bene di qua? I corvi di frontiera mi hanno fermato e ho perso lo stormo. Ah, non si può più migrare in pace. È vero. Porto un polline nuovo, porto un polline nuovo. Un polline nuovo? Rondine, dimmi, di quale fiore? Il miglior fiore, il migliore della pianta più dolce. E tu di dove sei? Credo che inizio a essere del nulla. La terra mi ha partorito e l'acqua mi ha congedato. E qui sotto non sanno dove si trova Napoli. È troppo caldo, no? Troppo sale. Sì. Dimmi, rondine, sai se per salire su vado nella direzione giusta? Sì, sì, sempre dritta, non si preoccupi. Addio, rondine, che tu riesca a trovare la tua Roma. Addio, Moreno, addio, addio. ¿Qué estáis haciendo? ¡Ferné! ¡Esto es radio, ragazzo! ¡Habíamos obligui comerciali! ¡Ferné! In questo momento la immagine fa vedere una balena. Una balena che tira di un gomone pieno di neri e un bianco. La balena tira del gomone pieno di neri e anche un bianco. Questo è un sogno tirato dalle balene. Vanno i miei morti qua e le loro osse parlano con il freddo. Lasciate libera la strada, io non canto per cantare. Io cerco un mondo altro. Qualcuno ha visto un sogno tirato dalle balene? Ora si può vedere. Io sono il cantore sopra coperta che schiaccia al petto una chitarra di fronte alla città in rovine. Lasciate libera la strada. Oh, non canto per cantare, io cerco un mondo. Questo. Io sono il cantore, io sono un sogno, questo è un sogno tirato dalle balene. Che? fuggire da questo sogno? Gettarmi dalla poppa? Nelle braccia di chi? Che presunta purezza! Non mi muovo da qui! Io voglio un mondo! Questo, signora del piacere, buongiorno. Sobborghi selvaggi, buongiorno, buongiorno. Ehi, Moreno, Moreno, il Vesuvio, siamo arrivati, Moreno. Moreno, siamo arrivati, mi senti? Svegliati, Moreno! Siamo arrivati! Oggi il Vesuvio è entrato in eruzione. Lungo il pendio esplosioni di uomini hanno bussato alle porte delle case vicine. Uomini lava, affamati, confusi, in lamento. Un grido di dolore come unica arma e un bastone rubato. Prima o poi, dicono le autorità, le esplosioni continueranno e qualcuno verrà da molto lontano a reclamare la sua parte di felicità. Prossimo. Oh, signora Balena, che fa lei qui? La trasformeranno in olio se la vedono. Perseguitata dai cacciatori di balene. Mi lasci passare, sergente. Ma lei è troppo grande, signora, la verranno. Qualcosa mi verrà in mente, sergente. Qualcosa mi verrà in mente. Va bene, passi. Prossimo. Oh, rondini di nuovo. Tutti gli anni lo stesso con voi altri, perché non vi calmate? Non lo so, non lo so. Parliamo sul serio. Che cosa contrabbanda? Vediamo un po' quel becco. Vediamo un po' quelle zampe. Solo portiamo vento nelle piume, sergente. No, no, no. Torni a casa sua, signora. Quale? Quale? Come quale? Dove è nata? Ma adesso lì fa freddo e il freddo ci fa male. Ma anche a me il freddo mi fa male, non per questo vado di qua e di là come se fosse un vagabondo, signora. Perché? Perché non lo fa? Beh, se iniziamo con le domande, passi, passi. Grazie, sergente. Prossimo. Montagna. Signora, per quanto ne so, lei non dovrebbe muoversi. Chi lo ha detto? Vado da Maometto. Ma una montagna. Sono milioni d'anni che non percorro queste strade, sergente. Mi lasci passare! Fermati, Fernè! Fermati! Parà, carajo! Fernè, mi ascolti! Fernè, non vanno più queste cose! Basta, Fernè, tu non sai fare radio! Che è tutta questa roba? Cioè, Fernè! Ehi! Capo, Fernè, rispondimi, ragazzo! Dove sei? Fernè non c'è, capo. Chiedo scusa al pubblico. Come non c'è? No? Passami Fernè, rapido! No! Fernè non c'è mai stato, capo. Lo sostituisco io, mi ha chiesto questo favore e... Bene, come faccio un po' di raro? Che dici? Che? Non... Che non c'è mai stato. Come non c'è mai stato? No, non c'è mai stato. E dove sta? Faceva l'animazione di un matrimonio oggi. Le pagavano, per questo mi ha detto a me di fare questo programma. Io sono amico e... Ma allora con chi parlo? Sto diventando pazzo. Con chi parlo, carajo? Con Daniel, quello che ha fatto il viaggio dalla Patagonia in Italia. Bene, un giorno sono arrivato e adesso sono qui e faccio queste cose, spettacoli, e conosco la gente di Onda Rossa e abbiamo fatto questo collegamento, ma non sapeva come dirle, capo, della sostituzione. Mi ha paura che non mi lasci fare il programma e molta gente sta ascoltando, non sapeva come dirlo. Mi scusi, capo, no, no, non ho trovato la forma, però non so. E tua sorella? Non teneva un lavoro per te? No, mia sorella no, no, non ci capiamo con mia sorella, litighiamo tutto il tempo, meglio da solo, capo. Daniel, mamma mia. Ah, mi hai imbrogliato tutto questo tempo. Ho tentato di spiegarle, però stavo pensando mentre ascoltavo. Sì. Tu non sei quello che viveva a fianco al gomista, di fronte alla sarta? Sì, sono io. Doña Clara, che è morta l'anno scorso. Sì, sono io. Ah, è morta la signora Clara? Sì. Guarda un po'. Sì. Ma certo, io ti conosco. Il paese è piccolo, capo. E dimmi, ora che sta per finire la canzone e il programma. Sì. Già che sei lì e hai combinato tutto questo casino, come pensi di finire? Dico, no? Che vas a inventare ora? No, non inventerò nulla. Volevo finire con una poesia di un amico argentino, Enrique Sims. Le piace la poesia, capo? Ah, che interessante, una poesia. Dale nomás, dale nomás. Ma sì. Salutami tua madre. Grazie, capo. Te devo qualcosa? Manda la mierda. Solo per l'orecchio, e finalmente Daniel è arrivato un giorno a Napoli e abbiamo in diretta le sue parole. Daniel, come si dice in Argentina, Daniel, come ti senti adesso che sei qui in Italia? Beh, in realtà io non vivo né in un paese né in una patria. Io vivo in una strada, una lunga strada che attraversa tutte le strade del mondo per dove sono andato. Ci sono zone della mia strada che mai ho visto né mai vedrò, però attraverso di essa sono andato le sue avventure e sventure, gli amici degli amici degli amici che conosco. Questo è il mondo, una strada che attraversa tutte le patrie e nazioni, tutte le pelli e le lingue, dove vivono i miei amici, conosciuti o immaginari, che provano a fuggire dalla crudeltà che viene perseguitando il mondo, strada per strada. Tutto ciò che non è lì, in quella strada, non esiste. Sono rumori o notizie, sono un'invenzione. Non esistono né papi, né presidenti, non ci sono politici, né assassini. Sono incubi che ci sognano, sono la morte che ci vigila. E anche se la crudeltà ci raggiunge e ci rende ciechi per sempre, perfino così non esisterà altro che il ricordo di ciò che siamo stati in quella strada. Animali ardenti che scappano da Dio tutti i giorni, perché la nostra vita è una fuga senza destino. Noi ci scappiamo dal passato per smarrirci nel futuro. La paura ci perseguita da ieri e il futuro ci tormenta da domani. A volte, nelle notti, esco a percorrere l'incubo, a guardare nel volto della gente, la matrice del volto che sogna tutti i volti. Quando me ne vado, la mia strada mi piange, perché essa è l'anima di cui sono fatte tutte le anime. Senza questa strada non siamo niente, né nulla, né nessuno. Grazie Danieli, così arriviamo alla fine di questo programma speciale di Solo per l'Orecchio. Dalla Patagonia Argentina, FM Alas, Radio Onda Rosa, para todo el mundo. Buonasera a tutti, buon programma, buon lavoro, buona vita e arrivederci. Solo per l'orecchio. Per l'orecchio. Entra la radio.